Alf Bergan indica, schernendo, i cartelloni. S.U. Su! Mrs. Brin, a Bloom, Baldori alla chetichella, gli strizza l'occhio. Perché non baciò la ferita per guarirla? Ne aveva voglia. Bloom, scandalizzato. La migliore amica di Molly! E come poteva? Mrs. Brin, la lingua carnosa tra le labbra, offre un bacio colombino. Risposta. Picche. Non ha un regaluccio per me? Bloom, sbadatamente. Kosher. Qualche cosina per rompere il digiuno. Una casa dove pasta di carne non c'è è incompleta. Sono stato a vedere Lia, Mrs. Brandman Palmer, incisiva interprete di Shakespeare. Disgraziatamente ho buttato via il programma. Da quelle parti c'è un locale di prim'ordine per i piedi di porco. Tocchi qua. Richie Goulding, tre cappelli da donna calcati in testa, appare inclinato da una parte per il peso della borsa nera d'ufficio Collis & Ward, su cui sono dipinti un teschio e due ossa incrociate, bianco di calce. La apre e fa vedere che è piena di salsicciotti, aringhe affumicate, merluzzi Findon e pillole impacchettate. Ricci, il più conveniente di Dub. Patti il calvo, scarafaggio tribolato, fermo sull'orlo del marciapiede, piega la salvietta, cameriere attento in attesa. Pat avanza con un piatto, sbandato, dintingolo goccio sgocciolante. Pasticcio di carne rognone, bottiglia di birra. Attenda finché io attenda lei. Ricci. Buon Dio, non ho mai mangiati in vita. A testa bassa, avanza ostinatamente. Lo stradino, che barcolla lì vicino, lo trafigge coi denti arroventati della sua torcia a forca. Ricci, con un grido di dolore, la mano alla schiena. Ai, morbo di Bright, infiammazione alle rigaglie. Bloom indica lo stradino. Una spia. Non attiri l'attenzione. La folla stupida mi dà i nervi. Non sono qui per mio piacere. Mi incombe un dovere grave assai. Mrs. Brin, sempre a chiacchierare e a buscherare la gente con le solite balle. Bloom, la metterò a parte di un piccolo segreto sul perché sono venuto a finire qui. Però non lo dica a nessuno, neanche a Molly. Ha una ragione particolarissima. Mrs. Brin, tutta eccitata. Oh, per nulla al mondo. Bloom, camminiamo un po'. Le spiace? Mrs. Brin, e perché no? La ruffiana fa un cenno non accolto. Bloom va avanti con Mrs. Brin. Il Fox Terrier li segue, guaendo pietosamente, dimenando la coda. La ruffiana, giudeo scapezzato. Bloom, in abito sportivo color avana. Ramoscello di caprifoglio all'occhiello, camicia color Isabella molto chic, cravatta scozzese a croce di Sant'Andrea, ghette bianche, spolverina fulva al braccio, scarpette sportive rosso fulvo, binocolo a tracolla e bombetta grigia. Si ricorda che molto tempo fa, devono essere parecchi anni, subito dopo che Millie, si chiamava Marionetta allora, fu svezzata. Andammo tutti insieme alle corse a Ferry House, se non mi sbaglio. Mrs. Brin, in un elegante tailleur azzurro, cappello di felpa bianca e veletta finissima. A Leopardstown. Bloom. Ma sì, a Leopardstown. E Molly vinse sette scellini su un cavallo di 3 anni chiamato Non lo dire. E al ritorno, passando per Fox Rock, in quello sgangero di carrozzino a 5 posti, lei era in piena fioritura allora e aveva quel cappello nuovo di felpa bianco, con guarnizioni di talpa, che Mrs. Hayes le consigliò di comprare perché era ridotto a 19,11. Un po' di fil di ferro e uno straccetto di flanella di cotone. E io ci scommetterei qualsiasi cosa che lo fece apposta. Mrs. Brin. Ma sì, certo, quella Bertuccia. Non me lo dica. Bei consigli. Bloom. E E poi non le stava per niente bene quanto quell'altro berrettino, tanto carino, con sopra un ala d'uccello del paradiso che mi piaceva tanto su di lei ed era veramente irresistibile, sa. Solo che era stato un peccato ammazzarlo, brutta cattivona, quel povero esserino col cuore piccolo come un punto. Mrs. Brin gli strizza un braccio, piagnucola. Fui proprio cattivona, sì. Blum, piano, in segreto. Sempre più rapidamente. E Molly mangiava un panino imbottito d'arrosto speziato, tirato fuori dal paniere della moglie di Joe Gallagher. Francamente, per quanto avesse i suoi consulenti o pretendenti, le sue maniere non mi sono mai andate a genio. Era Mrs. Brin, troppo Blum, sì. E Molly rideva perché Rogers e Mago Torrilli facevano il verso al gallo nel passare davanti a una fattoria. E Marcus Tertius Moses, commerciante di tè coloniali, ci sorpassò in un birruccino con la figlia. Si chiamava Moses, la ballerina. E il barboncino sulle sue ginocchia si era tutto rabbuffato. E lei mi chiese se avevo sentito dire, o letto, o sapevo, o avevo incontrato Mrs. Brin, ansiosamente. Sì. Gli svanisce di sotto gli occhi. Seguito dal cane guaente, avanza verso le porte dell'inferno. In un androne una donna in piedi, china in avanti a piedi divaricati, piscia vaccinamente. Davanti a una mescita sprangata, un gruppo di sfaccendati sta a sentire il racconto che un capomastro dal grugno spaccato gracchia con rauco umorismo. Due di loro, mutilati delle braccia, lottano, sbattendosi qua e là, ringhiando, per scherzo, cozzo ubriaco di membra stronche. Il capomastro si accoccola, la voce strozzata nel grugno. E quando Kairns esce dal palco di Beaver Street, dove stava per farla? Proprio nel secchio di birra, vi dico, che era là in mezzo ai truccioli per gli imbianchini di Durham. Gli sfaccendati sghignazzano con palati fessi. Oh, cribbio! I loro cappelli schizzati di calcina ondeggiano. Tutti inzaccherati dalla colla e dalla calce delle loro impalcature, gli saltellano intorno senza membra. Blum, pura coincidenza. A loro sembra buffo. Tutto meno che questo, in pieno giorno. Quasi non riuscire a camminare. Fortuna non passava neanche una donna. Gli sfaccendati. Cribbio, questa è buona! Sali purgativi! Oh, Cribbio, nella birra degli operai! Blum passa, puttane da quattro soldi, sole, a coppie, inscellate, scarmigliate, chiamano da vicoli, porte, angoli. Le puttane. Dove vai? Dove vai, bel signorino? Ma la gamba di mezzo ti funziona? Ce l'avresti un fiammifero per caso? Vien qua, te lo raddrizzo io. Arranca via, cavando i piedi da quell'etamaio, verso la strada illuminata nel fondo. Dietro tendine gonfie di vento, un grammofono drizza la sua tromba di bronzo ammaccata. Nell'ombra la tenutaria ad una bettola contratta con lo stradino e le due giubbe rosse. Lo stradino, ruttando. Dov'è sto fottuto locale? La tenutaria della bettola. Perdon Street. Uno scellino la bottiglia di birra. Donna rispettabile. Lo stradino s'attacca alle due giubbe rosse e li trascina avanti barcollando. Forza, esercito inglese! Il soldato Carr, dietro le sue spalle. È scemo quello. Il soldato Compton ride. Dai, forza! Il soldato Carr, allo stradino. Lo spaccio della caserma Portobello. Non hai che da chiedere di Car. Car e basta. Lo stradino. Bercia. Dei Wexford gli arditi, noi siamo. Il soldato Compton. Di un po'. E del sergente maggiore, cosa ne pensi? Il soldato Car. Bennett. Siamo pane e cacio. Gli voglio bene al vecchio Bennett. Lo stradino. Bercia. La grave catena e la terra natia libereremo. Se li trascina dietro barcollando. Blum si ferma, non sa che fare. Il cane si avvicina, la lingua a penzoloni ansimante. Blum caccia all'anitra selvatica questa. Luoghi di perdizione. Dio sa dove sono andati. Gli ubriachi coprono le distanze a doppia velocità. Bella compagnia. Quella scena a Whistler Row. Saltare in una vettura di prima classe col biglietto di terza. E poi troppo lontani. Treno con la locomotiva in coda. Poteva anche andare a finire a Malahide, o in un binario morto per tutta la notte, o forse uno scontro. Non è il bere, è il ribere. Una volta non fa niente. Ma perché gli vo dietro? Però è il migliore di tutta la combriccola. Se non avessi saputo di Mrs. Beaufoy Purfoy, non sarei andato e non ci saremmo incontrati. Kismet. Perderà quei quattrini. Qui è l'ufficio scarico. Buona piazza per rivendugli e suonatori d'organetto, questa. Cosa vi occorre? Preso e perso. Avrei potuto rimetterci anche la vita con quell'uomo campanello, rota binario, puleggia, faro, juggernaut. Se non fosse stato per la mia presenza di spirito. Non la si scampa sempre, però. Se fossi passato davanti alla vetrina di Ciolock quel giorno, solo 2 minuti dopo, sarei stato impallinato. Assenza di corpo. Però se la pallottola mi avesse bucato appena la giacca, avrei chiesto i danni per lo shock nervoso. 500 sterline. Chi era? Un elegantone da club di Kildare Street. Dio aiuti il suo guardacaccia. Guarda davanti a sé, leggendo sul muro una scritta fatta col gesso. Sogno umido. E un disegno fallico. Strano. Molly disegnava sul vetro appannato dello scompartimento a Kingstown. A cosa assomiglia questo? Bambole agghindate si dondolano nei vani illuminati delle porte, negli strombi delle finestre, fumando sigarette Birdseye. L'odore delle foglioline dolciastre fluttua verso di lui, in lente ghirlande tondo ovali. Le ghirlande. Dolci sono le dolcezze. Dolcezze del peccato. Bloom, ho la schiena in pezzi. Andare o tornare? E questa roba da mangiare? Mangiala e ti imbratti di carne di maiale. Ma sono ben stupido. Denaro sprecato. 1,8 pence di troppo. Il cane da caccia gli striscia contro la mano, il muso freddo e bavoso, e dimena la coda. Strano come me li tiro dietro. Anche quella bestia di oggi. Meglio rivolgergli la parola. Gli piace fare delle rencontre, come alle donne. Puzza come una puzzola. Chacun son goût. Potrebbe essere arrabbiato. Canicola. Incerto nei movimenti. Fido. Buono, buono. Gary Owen. Il cane lupo si stende sulla schiena, contorcendosi oscenamente con zampe imploranti, la lunga lingua nera pendente. Influsso dell'ambiente, daglieli e falla finita, purché nessuno. Con parole di incoraggiamento si trae indietro con passo furtivo da cacciatore di frodo, tallonato dal setter in un fetido angolino. Svolge un pacchetto e sta per far cadere piano lo zampetto di porco, ma si trattiene e palpa lo zampino di pecora. Abbondante per 3 pence. Sì, ma lo tengo nella mano sinistra. Richiede maggiore sforzo. Perché? Più piccola, perché si usa meno. Oh, lasciamo andare. 2 e 6. Con rimpianto lascia andare gli zampetti di porco e di pecora. Il mastino grufola goffamente nel pacco e si ingozza con ringhiosa avidità, sgranocchiando le ossa. 2 guardie, con le mantelline impermeabili, si accostano silenziose, vigili, mormorano insieme. Le guardie. Bloom, di Bloom, per Bloom, Bloom. Ciascuno dei due mette la mano sulla spalla di Bloom. Prima guardia, colto in flagrante, vietato gettare rifiuti nella pubblica via. Bloom, balbetta, sto facendo de del bene al prossimo. Uno stormo di gabbiani, di procellari, e si alza famelico dalla fanghiglia della Liffey con panini dolci di bamburi nei becchi. I gabbiani. Chi ha catoca chi cancuri? Bloom, l'amico dell'uomo, allevato con le buone. Indica il cane. Bob Doran, crollando giù da un alto panchetto di bar, barcolla sullo spaniel che rumina. Bob Doran. Medoro, Da quella zampa, dalla zampa. Il bulldog ruglia con i peli del collo irti, un'articolazione del piede di porco tra i molari da cui scola una rabida saliva schiuma. Bob Doran scompare silenziosamente giù in un seminterrato. Seconda guardia, protezione degli animali. Bloom, entusiasticamente. Nobile istituzione! Ho rimproverato quel manovratore del tram al ponte Harold's Cross che maltrattava quel povero cavallo con la piaga sotto la cavezza. Come ricompensa me ne ha dette di tutti i colori. Però c'era il ghiaccio ed era l'ultimo tram. Tutte quelle storie sulla vita del circo sono molto demoralizzanti. Il signor Maffei, pallido di rabbia, in uniforme da domatore con bottoncini di diamanti sullo sparato, si fa avanti, tenendo in mano un cerchio di carta, una lunga frusta arricciolata e una pistola puntata sul botolo che si ingozza. Il signor Maffei, con un sorriso sinistro. Signore e signori, il mio levriero ammaestrato, fui io che domai Iace, il feroce stallone della Pampa, con la mia sella a punte brevettata per i carnivori. Frustare sotto la pancia con una correggia a nodi, un paranco con puleggia e sistema di imbracamento mi farà inginocchiare davanti il leone, per bizzoso che sia, anche il Leo Ferox, il divoratore d'uomini libico. Una sbarra rovente e un po' di pomata spalmata sulla parte dolorante hanno prodotto Fritz di Amsterdam, la iena pensante. I suoi occhi mandano bagliori. Posseggo il segno indiano, il bagliore che ho negli occhi e questi scintillii che ho sul petto sono il segreto di tutto. Con un sorriso malioso, ora vado a presentare Mademoiselle Ruby, l'orgoglio del circo.